Investire informati. E allora ci guida in queste acque un pochino in tempesta quest'oggi Monica Defend, Head of Global Asset Allocation Research di Pioneer Investment. Ho detto tutto correttamente, dottoressa Defend, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno, sì, si è detto tutto correttamente. Già solo dal titolo faccio venire mal di testa, io mi fa impressione. Allora, in ogni caso lei si occupa praticamente della strategia globale, della ricerca per questo grande gruppo finanziario, così ho proprio sintetizzando, mi spiace se ho banalizzato la sua carica, comunque è un bel impegno, perché lei oggi deve tenere, come dire, le antenne sempre ben puntate su tutti i fatti finanziari che accadono in tutto il mondo, per cui ha il suo bel da fare in questo periodo in cui c'è questo ritorno di volatilità, dicevamo, sui mercati, che peraltro è anche il grande cavallo di battaglia poi per chi fa trading. Lo capiremo nella seconda parte della trasmissione, perché abbiamo invitato due personaggi che di questo mondo sanno moltissimo. Allora, dottoressa Defend, intanto, prima di parlare un po' di questo nervosismo sui mercati, in realtà volevo con lei leggere una delle pagine del Sole 24 Ore di questa mattina, pagina 6, c'è tutta l'analisi, tutti i fatti delle ultime ore. Eurozona di nuovo in deflazione. La Federal Reserve apre la porta ad un rialzo in giugno, circostanza che era ritenuta del tutto improbabile fino a pochissimi giorni fa. L'analisi di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole, che dice la caccia ai rendimenti che comincia a stancare il mercato. Insomma, c'è davvero molto materiale da analizzare. Quali sono i fatti odierni che la colpiscono di più? Ma sicuramente le minute della Fed, e quindi in che modo è stato rifrasato l'incontro di aprile, che, come dice lei, ha aperto la porta a un possibile rialzo. Devo decifrare, allora, per gli ascoltatori, le minute sono i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana. Sì. In questi ultimi anni le banche centrali hanno lavorato molto sulla comunicazione, sul rendere trasparente quello che fanno, nell'ottica di poter migliorare il loro supporto ai mercati finanziari. Quindi è stato comunque un atto molto importante che anche la Banca Centrale Europea, tra l'altro, ha deciso di seguire. È molto, cambia qualche cosa? Francamente no, nel senso che comunque la probabilità che rialzino a giugno, prezzata dal mercato, rimane intorno al 27% ad oggi. Io continuo a ripetere che non è tanto quando cominceranno a rialzare, ma come, quindi con che velocità. Penso che davvero dovremmo leggere i dati di giugno per pensare cosa possa fare la Banca Centrale Americana, ma non mi preoccuperei molto. Abbiamo visto, quindi, sicuramente non è una decisione che in realtà si può pianificare ora, ma la Federal Reserve monitorerà proprio la congiuntura di giugno. Esatto, e il motivo è che, come diceva lei all'inizio, ci sono tante cose che comunque dipingono un quadro macroeconomico che rimane molto fragile, perché sia l'inflazione che la crescita sono delle caratteristiche di questo ciclo economico, e che si è anche accorciato. Insomma, pensiamo a settembre. A settembre eravamo tutti convinti che la Banca Centrale Americana avrebbe rialzato i tassi a dicembre. Poi a gennaio pensavamo che addirittura ci fossero segnali di recessione in America. Dobbiamo proprio abituarci a questi cicli economici accorciati, che sono purtroppo motivati da una fragilità che rimane. Perché è vero che il mercato del lavoro in America è migliorato, la disoccupazione sta scendendo verso il 5%, ma la qualità, per esempio, del lavoro che è stato creato è inferiore rispetto a quella che avevamo 10 anni fa. Si tratta molto di più di lavori temporanei, di lavori peggio pagati rispetto a quanto avevamo prima del 2007. Quindi io la capisco, la governatrice della Banca Centrale Americana, la signora Yellen, che naviga un po' a vista. Questo sia un atteggiamento cauto e giustificato. Oggi pomeriggio parleranno Fisher e Dudley, che sono altri due componenti di questo comitato della Banca Centrale, e forse ne sapremo ancora di più. Ma le aggiungo anche, dottoressa Defend, che qui a Rimini, all'Investment and Trading Forum, ci sono due esponenti della Federal Reserve. Abbiamo già chiesto delle interviste, uno ce la concederà oggi pomeriggio, un altro assolutamente ha detto che non parla. Simon Potter è responsabile mercati per la Federal Reserve di New York. Sì. Terrà il suo intervento fra poco alle 12 e ha già detto che non vuole parlare con i giornalisti, mentre nel pomeriggio sentiremo Mark Jensen, l'ho intervisto ieri alle 13.45, è membro della Federal Federal Reserve di Atlanta, quindi una Fed un po' più piccolina, ma certamente saprà quello che succede a Washington, per cui magari gli riferirò anche le considerazioni che abbiamo fatto con lei questa mattina per capire se è d'accordo e se tutti i membri appunto della Fed sono concordi nel muovere a vista appunto le decisioni di politica monetaria. Guardi, va bene, facciamo così. Proprio... quattro settimane fa a Washington al Fondo Monetario c'erano i meeting organizzati dal fondo, e proprio parlando con un membro del comitato diceva che loro sono assolutamente tranquilli nel poter aspettare, magari essere consapevoli che le curve stanno prezzando qualcosa di diverso, ma pensano di avere lo spazio di manovra adeguato per poter essere più efficaci possibile. Senta, dottoressa Defend, allora, a prescindere dalla Federal Reserve, da quello che farà a giugno, da quante volte potrà aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti quest'anno per portare i tassi americani in una condizione che viene definita nel gergo finanziario di normalizzazione, le chiedo, condividendo con lei un po' tutte le considerazioni che abbiamo sentito fra molti suoi colleghi che si alternano ad investire informati appunto in questa nostra trasmissione, molte società di gestione del risparmio appunto ci aiutano a commentare i fatti finanziari, sono tutti abbastanza concordi nell'affermare che avremo ancora mesi di balletto sui mercati. Anche lei è di questo avviso, e quali sono i fattori che potremmo considerare di nervosismo prevalenti? Sì, io credo che i mercati rimarranno volatili e senza una direzionalità marcata, quindi non vedremo un mercato che fa molto meglio di un altro, proprio perché il contesto di bassa inflazione, bassa crescita e fragilità del sistema non lo consentono. Ci sono poi degli eventi che possono creare del rumore, quindi della volatilità, a partire dall'Europa, il referendum nel Regno Unito. Al di là di quello che può essere il risultato, creerà prima tantissima volatilità, e per esempio questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo deciso un mese fa di uscire dall'investimento azionario europeo. Lì i due fronti del sì e del no, francamente mi sembra di capire che chi è per il sì è più preoccupato delle conseguenze economiche, che assolutamente condivido, chi è per il no è più preoccupato del lato immigrazione, ma sarebbe davvero un suicidio economico per il Regno Unito uscire dall'Unione. Il motivo è che dovrebbero riformulare tutti i contratti commerciali che hanno con Eurozona, e quindi si tratterebbe semplicemente di rimutuare quanto adesso è sotto targa EU in legge del Regno Unito. Sarebbe addirittura una perdita di tempo se vogliamo, senza banalizzare troppo. Sì, la però ringrazio per averci dato una visione così chiara di quello che potrebbe succedere, perché qualche volta anche concretizzare in maniera così dettagliata le conseguenze di una certa situazione europea non è facile, però insomma questo è anche un approccio molto pratico che condividiamo volentieri con i nostri ascoltatori che hanno bisogno di analisi così concrete. Dottoressa Defende, ma a proposito a parte la Brexit o meno, so che lei ha delle idee molto precise anche sul tema europeo, anche perché poi è giusto raccontarle queste analisi ai nostri ascoltatori, perché comunque amano continuare a rimanere investiti nelle economie che sono più vicine a loro, quindi tutta l'Europa, piuttosto per esempio che andare sui mercati emergenti. Le politiche monetarie di Mario Draghi, non convenzionali, quelle adottate fino a questo momento, farà tutto quello necessario che è necessario per proteggere l'euro, l'aveva detto 3 anni fa, ma continua ad andare avanti con questo atteggiamento, indispettiscono comunque la Germania, che di certo non glielo manda a dire appunto. Ci spiega bene, è un tema rilevante questo per un risparmiatore, questo continuo botta e risposta fra lo Stato tedesco e la Banca Centrale Europea? Io penso proprio di sì, premesso che trovo che senza San Mario Draghi oggi non saremmo qui a parlarne in maniera tutto sommato tranquilla, perché grazie alla politica di Draghi noi abbiamo avuto una crescita economica assistita dalla politica monetaria, ma che comunque è stata crescita. I mercati finanziari sono comunque saliti, per cui abbiamo evitato una crisi di liquidità, abbiamo evitato una crisi finanziaria ancora più profonda, e tutto questo grazie al pragmatismo di Draghi. Perché ci dovrebbe interessare? Innanzitutto per una questione di principio, che è quella dell'indipendenza della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è indipendente, questo è un aspetto fondamentale perché una banca centrale possa perseguire una politica monetaria che sia efficace, quindi non può essere assoggettata a quelli che sono delle indicazioni più o meno prestanti dei governi. Ne dico di più, che se proprio dovessi fare una lista di quelle che sono le mie preoccupazioni all'interno dell'area euro, mi preoccupano di meno casi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo, mi preoccupa molto di più l'atteggiamento della Germania, perché in questo momento sta bloccando alcuni progetti molto importanti, come per esempio l'unione bancaria, che secondo me potrebbe davvero essere un grosso passo in avanti in un'area che purtroppo ancora non ha un'unione fiscale. E tutto sommato la salvaguardia dei paesi periferici, che sono quelli che di più sono in difficoltà, ma che di più stanno godendo della politica monetaria di Draghi, penso sia una cosa molto importante all'interno di un'unione monetaria. C'è da dire che la Germania ha un avanzo di partite correnti enorme e, non avendo la possibilità adoperare il cambio per aggiustare questo squilibrio, questo genera un problema all'interno dell'Unione Europea, per cui sì, il risparmiatore se ne deve preoccupare, sia se vogliamo da un punto di vista ideologico di tenuta del progetto euro, ma poi anche dal punto di vista economico e pratico di quali sono le conseguenze che la politica portata avanti dalla Germania possa avere. E le ripeto, quando per esempio ero a Washington a Fondo Monetario, a me ha molto colpito che la maggior parte delle discussioni, anziché entrare nel dettaglio dello stato di salute dei vari paesi, fossero indirizzate veramente a cercare di calmare gli animi tra Germania ed Eurozona, quindi era una partita a tennis che si è vinta poi a favore di Draghi. Certo. Ma davvero l'impronta mi ha molto colpito, perché di solito non è così. Dottoressa Defende, devo interrompere questa chiacchierata con lei, ma l'ho lasciata parlare perché ci interessava anche questo suo approccio proprio da report che ci ha fatto da Washington rispetto a quello che accade tante volte in queste sale, in questi ambienti che a noi non sono naturalmente accessibili, quindi capire anche il livello della discussione è davvero interessante. La ringrazio per il momento, noi dobbiamo raccontare la borsa odierna, poi devo salutare due ospiti che ci stanno raggiungendo qui negli studi di Rimini, perché devo introdurre anche il tema trading online. Siamo nel regno di questo mondo, io ho le mie spalle in questo momento un evento tecnico che viene seguito da decine di persone che sono arrivate da ogni parte d'Italia, quindi sono anche molto colpita da questo, vorrei raccontarlo ai nostri ascoltatori. Se siete incuriositi dalle dinamiche del trading online, intanto chiamateci all'800 24 0024, tra poco ne parliamo con due esperti. Cuore e denari. Ecco a voi il mago di Wall Street in carne ed ossa. Mi chiamo Lee Gates, benvenuti a Money Monster. Chi non rischia nulla, nulla guadagna. È meglio vendere? È meglio scaricare? Cos'è successo lo sai bene, è stato un glitch. Un glitch? Non si sa come quei pagliacci hanno perso 800 milioni di dollari da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro. E nessuno si è degnato di dare una spiegazione. Come cavolo è possibile una cosa simile, eh? E insomma, il film del momento per chi fa il nostro mestiere, non se lo può certamente perdere, Money Monster, con degli strabilianti George Clooney e Julia Roberts. Si parla anche di gergo che potrebbe essere molto familiare nel contesto che ci ospita oggi, Rimini, l'Investment and Trading Forum. È una manifestazione, quella che ci ospita, che all'inizio, diversi anni fa, era davvero il regno dei trader, degli scalper, non so se ancora si utilizza questo termine, degli incalliti dei mercati finanziari. Oggi la manifestazione ha cambiato volto, ha un respiro certamente più ampio, però l'area riservata a quelli che possono essere definiti investimenti mordi e fuggi è ancora molto molto frequentata, così anche noi vogliamo occuparci di questo argomento, continuando però contestualmente anche a raccomandare di non avventurarsi su questo terreno complicato e di effettuare investimenti e risparmiare secondo la logica degli obiettivi di vita. Comunque, per i curiosi abbiamo voluto lo stesso pensato appunto di dare qualche suggerimento a chi è attratto da mercati, azioni, obbligazioni, valute, materie prime, vuole capire l'ABC del trading. a parte che comunque vi si investa poco, soprattutto quando siamo alle prime armi. Spero di aver dato le raccomandazioni di base, adesso lo chiedo agli ospiti che ci aiuteranno a muoverci con un po' più di consapevolezza in questo mondo. Grazie per essere con noi a Stefano Gianti, responsabile Business Italia di Swissquote. Adesso racconto anche che cos'è questa società, benvenuto. Grazie Deborah, buongiorno a tutti. E poi abbiamo invitato anche un collega, un amico, Andrea Fiorini, giornalista, editore dell'annuario del trading online italiano e autore anche di Trading Online for Dummies, edito da Epli, che ha portato qua. Naturalmente, buongiorno certo, Andrea. Buongiorno, eccoci grazie qua. Mille dell'invito. Intanto. Figurati, grazie a te tutti. Perché qua bisogna documentarci. Partiamo con un po' di lettura prima di andare a fare qualche operazione un po' da sprovveduti sui mercati. Peraltro stavo pensando prima, erano i tempi in cui per fare trading online bastava avere un grafico e i due concetti di base del supporto e delle resistenze. Adesso è un mondo, Andrea, completamente cambiato, direi. Ma forse questo tempo non c'è mai stato, nel senso che comunque per arrivare a fare trading bisogna studiare, prepararsi, investire non solo soldi ma tanto tempo e tante energie. Soprattutto. Quindi non è una cosa che tutti possono fare in modo semplice. Stefano Gianti è, come dire, d'accordo con questa impostazione di partenza? Sono d'accordo. Tu tra l'altro, Deborah, hai citato anche il fatto di scelta di vita, di investimenti, di volontà di dedicarsi ai propri investimenti. Di fatto chi fa trading online gestisce da solo il proprio patrimonio, può scegliere quale parte del proprio patrimonio investire e iniziare a fare trading online. Sicuramente è molto importante farlo con una dovuta formazione. Questo mondo lo conoscete molto bene, ma di questo afflusso di così tanta gente ad una manifestazione di questo tipo, cosa pensate? È fantastico, nel senso, io sono nel settore da diversi anni, dal 2010 che partecipo a queste manifestazioni, noto con estremo favore che ci sono sempre più persone presenti e noto tra l'altro, Deborah, cosa che ti potrà piacere, anche sempre una presenza femminile sempre più, davvero? Più importante. Sono brave le donne effettivamente nel trading sì, online. Purtroppo sono ancora soltanto il 15% soltanto di chi fa trading online, però guarda, noto che la donna fa trading con più serietà, nel senso si impone delle regole, le segue ed è molto più brava dell'uomo in questo sicuramente. Guarda, questa ultima considerazione ci è piaciuta molto, la dovremmo analizzare più attentamente. Allora, volevo intanto spiegare agli ascoltatori che Swissquote è un broker specializzato nel trading sul Forex, quindi mercato valutario, e sui CFD, che sono anche degli strumenti di investimento abbastanza particolari, poi magari faremo l'ABC anche su questo, su indici azionari, materie prime, metalli preziosi, ed è la sussidiaria londinese di Swissquote Bank, che invece è in Svizzera. Esatto, un gruppo quotato in borsa. Perfetto. Allora, cominciamo subito con l'ABC del buon trading. Per chi non avesse mai avuto nessun tipo di approccio con questo mondo, ma comunque è attratto dai mercati, basta conoscere le regole di base del trading o magari prima bisogna, non lo so, avere qualche, quantomeno, nozione finanziaria di base, immagino. Decisamente sì, ma prima di tutto bisogna scegliere il proprio operatore. Il proprio operatore deve essere assolutamente qualificato, deve essere molto stabile finanziariamente, molto solido. I requisiti patrimoniali sono davvero molto, molto importanti. E poi è anche importante capire quali sono i servizi che effettivamente l'intermediario, l'operatore offre, ad esempio una buona formazione, il fatto di avere la possibilità di avere un'assistenza. Questo è davvero molto, molto fondamentale, perché a mio avviso lo scambio di idee di trading durante la propria operatività, quindi il confrontarsi con altre persone che come te di fatto stanno cercando di imparare questa attività è davvero molto molto importante, quindi confrontarsi con altre persone, colloquare con il proprio intermediario, il proprio operatore è davvero certo. Molto importante. Immagino che ci saranno delle differenze a seconda dei broker con i quali possiamo fare una chiacchierata di questo tipo, ma voi avete un profilo tipico del cliente che utilizza la vostra piattaforma? Sì, c'è davvero di tutto. Ti posso dire che magari già il 50% delle persone che fanno trading sono neofiti, cioè vogliono iniziare a fare trading. Proprio per questo viene offerto un percorso formativo ad hoc che parte proprio dalle basi, dall'ABC del trading, sia sulle valute, sull'indice azionario, ma anche di altri prodotti, per poi seguirlo passo passo, crescere diciamo insieme. Questo è a mio avviso l'unico meccanismo che funziona, perché poi si imparano i concetti, si inizia ad operare e man mano solo con l'esperienza poi si ottengono i primi certo. Risultati magari già importanti. Andrea, allora invece il profilo del Dummies è molto chiaro, perché è proprio il negato su tutto. Noi avevamo proprio chiesto una traduzione letterale in una puntata di sì, Investire Informati di questo termine, esatto, la persona che proprio non sa nulla di un certo argomento esatto. Ma vuole iniziare. Allora, per chi è questo libro, il trading online for Dummies? Diciamo, il libro è proprio per chi vuole avere un primo approccio informativo sul trading online, quindi non è un libro che insegna a fare trading nel senso come guadagno, come divento ricco, che è un po' la domanda che fanno. Le persone hanno questa idea di cominciare a fare trading per moltiplicare quando, come i pani e i pesci, i propri risparmi, i propri investimenti. Quando cominciano e non sanno nulla di questo mondo, sì, dico, mi slego dalla banca di cui non mi fido, mi butto, faccio tutto da solo, esatto, e ho la possibilità di... E neanche apriamo la parentesi sulle piattaforme che trovano, poi magari invece la parentesi la apriamo, diciamo, e facciamo delle raccomandazioni anche su questo. Mediamente l'approccio è: apro un conto subito, non so niente, apro un conto, metto i soldi, li perdo con i primi ordini, chiudo tutto, vado a fare dei corsi che costano 3.000 euro, dopo sei mesi decido che non fa per me, il 90%. Poi c'è una parte che invece pian pianino... Persevera. Persevera. Infatti il libro si apre proprio con un primo capitolo dedicato al chi sono io, cioè la prima domanda che deve farsi un aspirante trader è: che tipo di trader posso essere? E prima di arrivare a scegliere un broker è necessario dire quanti soldi ho da investire e fino a quanto posso perdere. Infatti, che profilo ho? Quanto sono disposto a investire nel tempo, nella formazione, nel seguire i corsi? Dobbiamo già metterci proprio nell'ordine delle, esatto, idee che le prime operazioni che faremo saranno comunque in perdita? Beh, non perché necessariamente. Saranno degli esperimenti, non necessariamente, perché se si dedica il tempo, innanzitutto a farsi delle domande, a darsi delle risposte, a seguire dei corsi, a prepararsi sui meccanismi di mercato, del funzionamento degli strumenti, poi si riesce ad arrivare a scegliere un broker, io arrivo dopo un mese che ho studiato tutto a dire: beh, magari il Forex è quello che fai per me, e allora vado a cercare il miglior broker, capisco quale piattaforma, qual è lo standard, se ci sono piattaforme di più importanti o più evolute, scelgo, e una volta che ho capito tutto come funziona, allora posso decidere di avviare, oppure posso anche decidere di non farlo. Allora, io tra poco devo dare la linea al traffico, ma porterei a casa la domanda che ci fa Silvano da Varese, così ci riflettiamo un attimo e vediamo che risposte dargli. Silvano, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci una qua. Perché non è venuto a trovarci a Rimini intanto? Perché siamo anche un po' offesi che lei non ci è venuta a trovare, ecco. Io la ringrazio dell'invito, ma facendo l'imprenditore e avendo sulle spalle dei dipendenti non sempre ci si può allontanare. Ci piace questo approccio da buon padre di famiglia, Silvano, ed è l'approccio di cui parleremo non domani sembra, presentando il manuale dell'investitore consapevole. Ci dica cosa vuole sapere sul trading. Per noi imprenditori i dipendenti sono una fonte inesauribile e bisogna collaborarci oggigiorno, non c'è più l'imprenditore e il dipendente separati. Comunque la domanda molto semplice per quanto riguarda qui è, parlando con vari imprenditori, noi riceviamo tantissime email dove ci propongono corsi online di trading, di partire con piattaforme di trading e cose di questo genere. Mi sembrano tante truffe, non mi ci sono mai avvicinato. Cosa c'è di vero, cosa c'è di falso? Certo, allora anche questi sono operatori che evidentemente fanno marketing e pubblicità di sé come possono, qualche volta marketing anche particolarmente aggressivo, però insomma come facciamo ad individuare l'operatore che fa per noi, quello serio, quello assolutamente professionale, quello che non ci tradisce? Ne parliamo tra poco. Cuore e denari. Invece di un po' di cash c'è bisogno per fare un po' di trading online, però con anche molto sale in zucca, direi. Allora, qualche raccomandazione questa mattina ce la stanno dando i nostri ospiti, anche perché siamo nel regno del trading online, all'Investment and Trading Forum di Rimini, che ci ospita Radio 24 per due giorni. E adesso risponderemo alle considerazioni fatte da Silvano da Varese, però visto che gentilmente ci ha fatto compagnia al telefono ancora per qualche minuto, volevo fare un'ultima domanda a Monica Defende di Pioneer Investment, che prima ci ha raccontato un po' cosa ne pensa sui tassi di interesse, la politica monetaria della Banca Centrale Americana, ci ha raccontato della sua recente partecipazione ad un meeting del Fondo Monetario Internazionale a Washington, quindi è entrata un po' in stanze che per qualcuno sono considerate segrete. Ma dottoressa Defende, le volevo chiedere, lei si occupa di scenari finanziari anche di lungo termine, qua parliamo oggi di investimenti mordi e fuggi, li sposiamo i due modi di fare? Che ne pensa? Allora, premesso che non è proprio nel nostro DNA come società di investimenti fare il mordi e fuggi, noi non facciamo trading, ma siamo più investitori che cercano di guardare al valore nel lungo termine. E negli ultimi due anni, visti i rendimenti così bassi e la situazione così fluida, così veloce nel cambiare, abbiamo cambiato anche un po' e adattato il nostro processo di investimenti. Quindi generalmente noi facciamo così, abbiamo in mente delle storie di lungo termine. Può essere la Cina, può essere l'India, generalmente sono i paesi emergenti, perché è nei paesi emergenti dove vediamo un premio alla crescita e la volontà di modificare il proprio modello di crescita economica. E poi abbiamo dei temi più di breve periodo, per esempio la decisione di investire in franco svizzero verso sterlina inglese è una scelta di breve termine, perché per noi 3 mesi sono breve termine, ma che ci consente di proteggerci dal rischio che possa al referendum. Quindi combiniamo queste scelte di lungo termine a delle scelte più opportunistiche, laddove però per noi opportunistico sono scelte che hanno un orizzonte di 3-6 mesi. Almeno 3-6 mesi. Sì, sì. Grazie dottoressa Defende, ci sentiamo prossimamente in una nuova puntata di Investire Informati. Intanto grazie molte. Stefano Gianti, Swissquote. Allora, diceva Monica Defende, questo è un comportamento tipico delle società di gestione del risparmio, no? Puntare su storie che abbiano un respiro abbastanza lungo, e ha espresso proprio questo concetto, società che possono garantire valore a lungo termine. Questo significa che il trading online punta sull'investimento a brevissimo termine su società che hanno anche poco valore? Guarda, vorrei un po' sfatare il mito, nel senso, il trading online è semplicemente la possibilità di compravendere online, quindi è normale che posso comprare ora e vendere tra un centesimo di secondo, come fa lo scalper, come si diceva prima, oppure anche tenere la posizione per lunghissimo periodo. Noi abbiamo davvero molti clienti, anche istituzionali, ma anche clienti retail, che fanno anche magari semplicemente copertura valutaria, o anche imprenditori che vogliono coprirsi semplicemente dal rischio cambio. Quindi è davvero una possibilità che viene offerta proprio a tutti, non semplicemente a chi vuole fare, certo, profitto in 5 minuti, che davvero di fatto è la cosa più difficile. Ci sono soltanto pochi clienti che operano su grafici, diciamo, 5 minuti e lo fanno professionalmente, magari a fine giornata riescono ad ottenere profitti costanti, ma arrivano dopo un percorso davvero molto lungo. Io in primis consiglio sempre di approcciare i mercati con una certa tranquillità, portarsi avanti le posizioni per qualche settimana, ed è anche davvero importante notare come sul mercato valutario frequentemente ci sono dei trend fortissimi, come ad esempio il recente deprezzamento della sterlina che è durato per mesi, il dollaro per un anno e mezzo praticamente era stato fortissimo, quindi ci sono dei trend davvero molto lunghi che tutti i clienti, sia retail che istituzionali, possono cavalcare anche nel lungo periodo. Allora Andrea, diamo un primo commento all'osservazione del nostro imprenditore di Varese. Un imprenditore deve stare lontano secondo te dal trading online? Beh, dipende. No, nel senso che il trader è sempre visto come lo scommettitore, il giocatore d'azzardo, il folle che vuol buttare via dei soldi. In realtà la stragrande maggioranza dei trader sono normalissimi investitori, risparmiatori, che hanno dei conti correnti, utilizzano carte di credito, ma chiedono prestiti, hanno mutui, comprano la casa, hanno un patrimonio investito in titoli di Stato piuttosto che altri tipi di investimento, conti di deposito, quindi sono come noi sostanzialmente. E in più però hanno la volontà di investire una parte che mediamente, non so se il mio collega me lo conferma, è del 10% della liquidità pressappoco. Quindi una piccola parte, con una piccola parte affronto un rischio maggiore. Per me è anche alta, nel senso, pensavo che fosse anche un pochino più contenuta, però mediamente questo. No, mediamente, diciamo che i trader un po' più esperti utilizzano una media di questo tipo. Ma poi cosa fanno? Col 10% operano e quando guadagnano una parte del guadagno la rimettono via. Quindi c'è sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, c'è un approccio comunque certo, prudente in generale, con un po' di rischio in più per tentare di avere un guadagno, che è un classico della finanza. Tra un minuto purtroppo dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, ma sul fatto che la pubblicità su queste piattaforme che operano sul mercato, sul trading online, è così aggressiva, anche voi di Swissquote lo siete? State tempestando Silvano da Varese con le vostre proposte? No, assolutamente Gianti. No, è normale che nel settore si può trovare di tutto, però è sempre fondamentale rivolgersi. Due regole per la piattaforma seria? Sicuramente essere regolamentati dalla dalla Financial Conduct Authority londinese, che è davvero stringente, dà davvero molte garanzie e tutele all'investitore, e approcciarsi ad un intermediario solido sia patrimonialmente ma anche moralmente, diciamo, il fatto che ti dia proprio assistenza continua sia per quanto riguarda come utilizzare la piattaforma ma anche per quanto riguarda, diciamo, tra virgolette, consigli di investimento. Quello che ti permette di moltiplicare appunto i tuoi investimenti nel giro di poco, magari un attimo, guardiamo con un pochino più di, non dico di sospetto, ma di attenzione. Grazie a Stefano Gianti, ad Andrea Grazie Fiorini, mille. La Finanza Fordamis, magari la portiamo, lo regaliamo a Stefano da Varese. Grazie a tutti, noi torniamo in diretta domani qui da Rimini, stasera c'è anche Sebastiano Barisoni, a tutti buona giornata.